Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera prendiamo in esame due libri che parlano da una prospettiva storica da una parte e da una prospettiva futuristica dall'altra del problema ambientale, del problema della responsabilità sociale verso l'ambiente in cui viviamo e quindi come si muovono le imprese. Il primo libro è curato dalla professoressa Adriana Castagnoli. Buonasera, professoressa Castagnoli. Buonasera. Che insegna storia economica e sociale all'Università di Torino ed è un libro che raccoglie gli atti di un convegno che si è svolto nei mesi scorsi per il centenario della nascita di Aurelio Peccei fra etica, economia ed ambiente. Poi parleremo con Enzo Argante del libro L'auto che sarà il futuro della mobilità e quindi una prospettiva futuribile di quello che potrà essere non solo la mobilità ma anche il mondo in cui vivremo nei prossimi anni con questa responsabilità ambientale che abbiamo. Buonasera Argante. Buonasera. Argante è peraltro conosciuto anche agli ascoltatori di Radio 24, ha una rubrica il sabato pomeriggio, Ferry Boat, proprio dedicata alla responsabilità sociale. Ecco, comincerei da Adriana Castagnoli anche per un dovere di sensibilità femminile, professoressa Castagnoli. Aurelio Peccei, un libro dedicato a questa figura, una figura nota indubbiamente come imprenditore, come intellettuale, come protagonista soprattutto degli anni 60 e 70 della realtà italiana, animatore del Club di Roma, di cui si ricorda il libro I limiti dello sviluppo. Ma vuole magari lei meglio delineare la figura di Aurelio Peccei, professoressa Castagnoli. Senz'altro, ma Aurelio Peccei direi che è certamente noto in Italia, ma forse è più noto all'estero. Peccei nacque appunto a Torino nel 1908 e si laureò nell'Università di Torino in Scienze Economiche nel 30. Ecco, già allora era un personaggio singolare, diciamo, perché fece una tesi sulla NEP, la nuova politica economica di Lenin, conoscendo bene il russo. E questa particolare conoscenza gli consentì di essere subito assunto dalla Fiat come responsabile delle relazioni con l'Unione Sovietica. Apparve subito come un uomo cosmopolita, insomma, diciamo, per vocazione, per professione. Pensiamo che alla fine degli anni 30, per conto appunto della Fiat e di un gruppo di grandi imprese metalmeccaniche costruttrici di aerei, venne mandato in Cina, dove rimase per diverso tempo, conobbe Chiang Kai-shek, la moglie, e organizzò là la produzione appunto di aerei. Poi ovviamente alla vigilia della guerra fu costretto a rientrare in Italia e qui la sua vicenda fu subito particolare, perché molto ben voluto da Valletta, parlò con Valletta in maniera franca manifestando, diciamo, i suoi sentimenti di adesione contraria alla guerra e poi successivamente di adesione alla resistenza, militò nel movimento di giustizia e libertà. Dopo fu incarcerato, poi alla fine della guerra fu commissario straordinario della Fiat insieme ad altri e si occupò del settore aeronautico. Questo è un particolare importante perché poi nel 1946 Peccei fu fra i fondatori di Alitalia. Cioè, possiamo dire che, comprendiamo subito insomma, che fu protagonista e artefice di alcune fra le più importanti iniziative imprenditoriali del nostro paese e non solo, anche a livello internazionale, come poi dirò. Certo, quindi era un protagonista a cavallo della guerra, dopo la guerra, poi dopo aver fatto l'Italia entrò anche in Olivetti, che allora era uno dei grandi protagonisti della realtà industriale italiana e soprattutto della realtà più moderna dell'industria italiana. Mi permetto di dire soltanto questo, che fondò la Fiat Concorde in Argentina, di cui lui è stato responsabile, che fu una delle imprese di maggior successo, diciamo, nel subcontinente. Nel 1957, dopo la crisi di Suez, viene incaricato di creare una società di consulenza ingegneristica per i paesi meno sviluppati del Mediterraneo, l'Italconsult. di cui fu anche presidente negli anni 70, e poi nel 64 diviene amministratore delegato di Olivetti perché era mancato Adriano, Olivetti, l'azienda certo. Si trovava in una situazione molto difficile, e Olivetti fu per lui un'esperienza determinante. Una realtà in cui il tema della responsabilità sociale era molto forte, era molto presente in quegli anni, ma Peccei viene ricordato soprattutto, lo ricordavo all'inizio, per l'aver promosso questo rapporto del Club di Roma, che fu elaborato dall'MIT di Boston nel 72, I limiti dello sviluppo, che già dall'inizio fu una traduzione un po' infelice perché si doveva parlare di limiti della crescita, e viene ricordato più per alcune previsioni mancate che non per le tante invece previsioni corrette che Peccei aveva fatto con questo libro. Ecco, io direi che la responsabilità, come dire, delle previsioni è senz'altro degli scienziati, eminenti scienziati dell'MIT, perché furono loro con modelli matematici a individuare le linee di tendenza. Ecco, circa le previsioni, diciamo, in generale, mi permetto di dire questo: Peccei era molto sensibile ai problemi che lui vedeva nel mondo, avendolo girato tutto, per così dire, e si rendeva conto che c'era una responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future, nei confronti, diciamo, del rapporto uomo-natura, del ruolo della tecnologia che cambiava completamente il nostro rapporto con la natura e anche appunto con il futuro. Quindi, I limiti dello sviluppo, io direi che fu un testo, uno studio importantissimo, ma di cui furono gli scienziati autori del volume e dello studio in fondo responsabili. Ma aggiungerei un'osservazione che ha fatto anche Sartori pochi giorni fa sul Corriere, e cioè che in fondo gli scienziati e gli studiosi devono indicare delle linee di tendenza più che delle scadenze precise, e forse le linee di tendenza non erano così errate. Infatti, poi dopo sicuramente non immediatamente, ma nei decenni successivi, alcuni temi messi in luce da questo rapporto si sono poi puntualmente verificati. Ma appunto, guardando al futuro, parliamo ora del libro di Enzo Argante, L'auto che sarà, il futuro non solo dell'auto ma della mobilità. Un'auto vista anche qui in un'ottica di salvaguardia ambientale, di responsabilità sociale. Allora, come sarà, Enzo Argante, l'auto del futuro? Ah, direttore, se mi consenti, preciso subito come è l'auto oggi, perché sennò quella del futuro sembra arrivare dalla luna, no? Nel libro, infatti, io parto un po' da questo presupposto: la storia di quello che l'auto è oggi e che noi abbiamo un po' dimenticato, no? Ma di fatto, io sono stato ieri a Palermo in aereo e ho impiegato un'ora e 15 minuti per fare Palermo-Milano, poi per fare Milano-Monza ho impiegato 2 ore, no? Questo è l'emblema dell'automobile oggi, oltre che essere poi una delle cause di mortalità, la prima causa di mortalità in assoluto, e poi è un automezzo che consuma in maniera inopinata combustibile fossile, una piccola parte per muoversi, la maggior parte per inquinare e quindi sperperare questo oro nero che serve anche, tra parentesi, a produrre medicinali piuttosto che alimentazione. Quindi, partendo da questo, l'auto del futuro, in questo racconto, in questo reportage, ecco, l'auto del futuro non deve essere tutto questo. Non deve consumare troppo, non deve inquinare, deve essere più sicura. Esistono delle tecnologie che possono addirittura impedire che due automobili corsino l'uno verso l'altro. Quindi immagina cosa può voler dire che due automobili, come due calamite di segno uguale, non possono più toccarsi. Vuol dire rivoluzionare gli schemi. Ma questa è una tecnologia che esiste, come esistono anche già di serie alcuni dispositivi che non fanno partire il motore se sentono odore di alcol perché magari ha bevuto troppo. E poi ci sono delle grandi testimonianze internazionali, da Masdar in Arabia, dove ci sono città che non hanno addirittura previsto le automobili, a Curitiba in Brasile, dove il 97% delle persone va con i mezzi pubblici, l'automobile c'è, ma viene usata diversamente. Infatti, uno di questi capitoli del libro a un certo punto parla di 2040, l'auto che non c'è, quindi il futuro della mobilità è in gran parte, può in gran parte prescindere anche dall'automobile. Allora forse c'è da chiedersi se c'è una lobby dei carrozzieri che impedisce che ci siano delle auto che non si rovinino, oppure una lobby dei costruttori che hanno interesse a fare le auto come esistono adesso. È chiaro che nella prefigurazione, è una battuta ovviamente, nella certo. prefigurazione di un mondo della mobilità a incidenti zero, bisognerà trovare un altro mestiere per i carrozzieri, perché se le macchine non possono più cozzare l'una contro l'altra è evidente che quel mestiere lì, come tanti altri nell'era del digitale, è destinato a scomparire. È vero quello che dici, direttore, però il futuro, un futuro non molto lontano, forse non nostro, ma sicuramente dei nostri figli e dei figli dei nostri figli, l'automobile sarà qualcosa di diverso. Esistono già, per esempio, i prototipi alla Blade Runner che volano, no? Automobili che si trasformano in aereo, che sono addirittura elicotteri, che non fanno rumore, non hanno le pale, che si muovono. Esistono anche queste. Costano un po', da 400.000 piuttosto che 1.5 milioni di euro, quindi non sono facilmente commerciabili, diciamo così. Beh, anche perché poi se ce ne fossero un po' troppi si porrebbe il problema degli ingolfamenti anche dell'aria, probabilmente anche degli incidenti che in aria forse hanno conseguenze anche più gravi di quelle in terra. Ma Enzo Argante, tornando proprio alla visione del futuro, possiamo dire che il futuro sta galoppando, oppure che il futuro in cui cambierà questa società basata un po' sull'auto dovremo ancora tenerla noi e anche magari i nostri figli? Beh, ovviamente è impossibile immaginare che questo cambiamento avvenga così rapidamente. Certo, però si sta facendo strada, l'automobile elettrica sarà un grande momento di verifica, si sta facendo strada una concezione in cui non esiste più l'automobile e tutto il resto, le strade, i semafori, le tangenziali, i treni e gli aerei, ma esiste un sistema di mobilità in cui di cui l'automobile fa parte, piccolo o grande che sia, è un elemento di questo sistema di mobilità molto basato sul pubblico, molto meno inquinante, che consuma molto meno, in cui il ruolo dell'automobile sarà sicuramente più virtuoso di quello di oggi. C'è da dire, un'ultima battuta in questo caso va fatta, che a proposito di scienziati e di studiosi, come diceva la signora, che devono dare le linee guida, aspetta proprio alla scienza dare delle indicazioni da questo punto di vista su come si deve evolvere il mezzo automobile per avvicinarsi di più a questo bisogno primario per la sopravvivenza del pianeta. E aspetta anche poi a chi la usa, ai consumatori, ai cittadini, quello di fare delle scelte che siano appunto responsabili, che indirizzino anche la produzione, che indirizzino anche appunto le scelte poi di fondo di quello che è il mercato. Io ringrazio Enzo Argante, autore del libro L'auto che sarà il futuro della mobilità, edito da Egea, è un libro di 160 pagine per 18 euro, così come ringrazio la professoressa Adriana Castagnoli, che ha curato il libro Fra etica, economia e ambiente, Aurelio Peccei, un protagonista del Novecento, edito da Seb 27, un'editrice dell'Università di Torino, 180 pagine per 12,50 euro, ma c'è anche un DVD che si può vedere appunto per ricordare Aurelio Peccei. Ringrazio anche Filippo Reggi in regia, Anita Panizza in redazione, e ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata a tutti.